denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Meazza Rosciani, informazioni economiche a piene mani. Ed eccoci qua, buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Due di Denari. In realtà questa settimana una di denari, il secondo mi ha abbandonata ma torna lunedì. Come avete avuto modo di ascoltare in questi giorni, ci siamo alternati alla conduzione della trasmissione per prenderci delle giornate di riposo, ma poi da lunedì si rientra naturalmente a pieno regime alla conduzione del programma, anche perché con la manovra di bilancio appena varata ci sono talmente tante cose da raccontarvi e da spiegarvi che naturalmente non vediamo l'ora di riprendere il pieno ritmo e il ritmo regolare della nostra trasmissione. Ma naturalmente anche in questi primi giorni dell'anno i temi non ci sono mancati. Avete visto quello che è successo in borsa ieri, quello che sta succedendo ancora oggi, perché il nervosismo sta continuando. Ieri era colpa prevalentemente della Cina, anche oggi è un po' colpa della Cina, che riduce i margini di guadagno per Apple, il colosso degli iPhone e non solo, e questo stamattina sta determinando una bella ondata di vendite sul comparto tecnologico in tutto il vecchio continente, trascinando di nuovo al ribasso i listini. C'è un calo di Parigi e di Francoforte di oltre un punto, Londra perde lo 0,30%, Milano meno 0,77%, STM, tanto per dare proprio il segnale dell'effetto Apple, perde 8 punti percentuali a Milano, così come a Parigi, ma anche tutti gli altri titoli del settore tecnologico, del settore dei microchip, perché STM è il principale fornitore di chip ad Apple. Quando ovviamente arrivano cattive notizie dal colosso americano, queste si ripercuotono su tutte le varie società che in qualche maniera sono evidentemente legate al suo business. Non parleremo però solo di borsa questa mattina, ma magari un po' qualche commento lo faremo, perché tra i nostri esperti della mattinata abbiamo anche chi i mercati finanziari li conosce molto bene. Parleremo delle vostre finanze, del vostro budget personale, del budget della famiglia. Avete per caso pensato ad una strategia nuova da adottare quest'anno? Sarà il vostro impegno più importante quello di organizzare le vostre finanze al meglio, magari per poter risparmiare un po' di più, oppure per farvi qualche regalo quest'anno? Avete stabilito che il 2018 non è stato esattamente all'insegna della migliore organizzazione possibile della budget della famiglia, partendo anche da tutto quello che è stato l'impegno profuso a vario livello nel 2018 da vari attori e da vari soggetti per l'educazione finanziaria. Oggi proveremo a fare un punto della situazione con due istituzioni che sono molto impegnate in questo campo e che potranno darci degli strumenti per così educarci un po' di più all'organizzazione delle finanze personali. E quindi, se avete qualche domanda su questo tema, adesso vi stimolerò con un dettaglio maggiore, potete ovviamente come sempre intervenire in diretta all'800 24 00 24. Vi faccio già subito la domanda, che vediamo un po' in che maniera vi stimolerà. Siete in grado di poter dire quanto avete risparmiato nel 2018? Non cominciamo a dire che i mercati sono andati male, quindi avete perso, magari siete stati anche ben seguiti da qualche consulente e quindi qualche soddisfazione l'avete portata a casa, ma in ogni caso quello che ci interessa capire è quanto riuscite ad accantonare ogni mese. Poi parleremo anche degli strumenti con i quali lo fate. Siete in grado dunque di poter dire quanto avete risparmiato nel 2018 e quanto invece avete destinato alle voci di spesa principali e fisse del budget familiare? Le bollette, mutuo, affitto, l'automobile, i trasporti, figli, il settore alimentare. Il risparmio è stato costante a casa vostra oppure accantonate a seconda delle disponibilità mensili? Se ci volete appunto chiamare, il numero verde ve l'ho ricordato, ci potete anche scrivere al 349-238-6666, è lo stesso numero che potete utilizzare anche per WhatsApp, dove potete inviarci dei messaggi vocali. I nostri ospiti di questa mattina, prima del giornale radio del risparmio, ve li presento. Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation, buongiorno e ben ritrovata. Grazie, buon anno. E buongiorno anche a Claudio Grossi, partner di Progetica, che è un'altra società di consulenza che è molto impegnata su tutto il territorio nazionale, ma con un'iniziativa specifica con il comune di Milano, educazione finanziaria di qualità per i cittadini del capoluogo lombardo. Grossi, buongiorno e benvenuto anche a lei. Non c'è ancora, adesso lo stiamo chiamando, lo saluteremo fra qualche istante. Detto questo, insomma, come dire, le informazioni di servizio ve le ho date, adesso parliamo invece con le altre news. Allora, Allora, sta iniziando, questa mattina ne parla diffusamente il Sole 24 Ore, l'iter verso il via libera effettivo per il reddito di cittadinanza. La partenza è programmata nelle intenzioni dell'esecutivo, ma noi lo metteremo alla prova perché non siamo molto convinti che si riesca a fare entro questa data. È programmato appunto per il 1 marzo. Da quella data i potenziali beneficiari del sostegno al reddito potranno presentare una domanda telematica a Poste Italiane, poi occorrerà l'ok dell'INPS che dovrà verificare i requisiti richiesti e con il via libera dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale bisognerà presentarsi entro 30 giorni agli uffici postali per ritirare la card con l'importo spettante. Queste prime 4 fasi devono essere concluse entro il 30 aprile, poi si prospettano 3 opzioni. Entro maggio il soggetto interessato dovrà stipulare un patto di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia privata. Se una persona è svantaggiata o con problemi di disagio sociale dovrà firmare un patto di inclusione sociale e poi entreranno in campo le imprese con il patto per la formazione. I datori di lavoro devono comunicare disponibilità di posto ai centri per l'impiego e alle agenzie per il lavoro e dal momento in cui assumeranno il beneficiario del reddito potranno ottenere uno sgravio contributivo da 5 a 18 mensilità. Tutti i dettagli rispetto a queste novità le trovate questa mattina appunto, li trovate sulle Sole 24 Ore. Ricordiamo che il reddito di cittadinanza dura 18 mesi, un requisito fondamentale per ottenere questo beneficio. Non si potranno rifiutare 3 offerte di impiego pena la perdita del sussidio. Ma insomma, strada facendo, nelle prossime settimane con Mauro Meazza torneremo nel dettaglio di questa importante novità per quest'anno. Per quello che riguarda la borsa, io non l'ho ricordato prima introducendo la giornata negativa per i mercati finanziari. Ieri anche a Focus Economia nel pomeriggio, oggi probabilmente ci ritorneremo, abbiamo diffusamente parlato della partenza d'anno con il botto negativo per un istituto di credito italiano, Banca Carige, che è finita sotto il commissariamento della Banca Centrale Europea in amministrazione straordinaria. I titoli sono, ieri abbiamo detto appunto che erano sospesi e abbiamo ipotizzato con Andrea Fontana di Radio Core Il Sole 24 Ore che la sospensione potesse durare solo ieri, in realtà stamane abbiamo appreso che la sospensione è stata stabilita, è stata decisa a tempo indeterminato, appunto l'ha stabilito la Consob che ha deliberato questa sospensione fino a quando vigerà l'amministrazione straordinaria del gruppo. Un'altra notizia riguarda il mercato dell'auto in Italia. Il 2018 si chiude in territorio negativo per le immatricolazioni appunto italiane. Nell'anno che si è appena chiuso in Italia sono state vendute 1.910.000 vetture, il 3,1% in meno rispetto al 2017. Ha fatto piuttosto male Fiat, ma dal 2014 il mercato era in crescita vistosa e quindi quest'anno è stato il primo anno di arresto. Chissà se peserà quest'anno che si sta aprendo anche l'ecotassa stabilita e decisa dall'esecutivo, ma anche questo sarà un tema del quale parlare diffusamente prossimamente. Infine, il decreto sulla pace fiscale ha cancellato automaticamente oltre 12 milioni di posizioni debitorie per multe, bolli auto e tasse sotto i 1.000 euro non pagate fra il 2000 e il 2010. Il decreto fiscale collegato alla manovra prevede che dopo lo stralcio della cartella spetti al contribuente controllare se la sua posizione debitoria è stata annullata. Sul Sole 24 Ore trovate tutte le notizie su come scoprire se la cartella è stata strappata d'ufficio. Detto questo, adesso possiamo partire con il tema di oggi. È un affare di famiglia, stiamo divertendoci con la regia sulle basi scelte questa mattina. Sono affari di famiglia, Claudia Segre, decidere come impostare il budget e come impostare il rapporto fra entrate e uscite è una questione che riguarda non solo il capofamiglia, anche se adesso dovremmo anche discutere se esiste ancora, se è il caso ancora di discutere dell'esistenza di questa figura, perché insomma sono scelte che vanno fatte in un pieno clima di condivisione. Madre, padre, figli, tutta la famiglia deve unire il proprio sforzo per gestire responsabilmente quello che entra in relazione a quello che esce. Allora, vogliamo ricordare l'impegno di Global Thinking Foundation, che è una fondazione nata da pochissimi anni ma che ha bruciato in poco tempo tutte le tappe dell'impegno in Italia, cogliendo peraltro anche l'occasione del varo della strategia nazionale di educazione finanziaria. Noi abbiamo avuto proprio nella puntata del 31 dicembre Anna Maria Lusardi, che ci ha fatto un bilancio rispetto a questo anno che è stato molto impegnativo, che ha visto decollare ufficialmente questo progetto, che ormai non è più un progetto, una strategia vera e propria. È partito il comitato. In questo discorso generale italiano, l'attività di Global Thinking Foundation come si è innestata? Ma diciamo, la Global Thinking Foundation è nata 3 anni fa, quindi una fondazione no profit che svolge attività ed iniziative di inclusione sociale sul territorio nazionale, portando la propria esperienza internazionale come altre fondazioni del terzo settore che offrono i propri servizi alla cittadinanza in maniera del tutto gratuita. Fondazione del terzo settore che quindi avrà in questi giorni guardato con grande interesse la questione abolizione. Anche questa questa ulteriore complicazione. Ricordo che proprio nel discorso di Mattarella il nostro presidente ha ricordato l'importanza di questa attività, la tassa della bontà, esatto, perché le civil society organization, cioè le organizzazioni della società civile come la nostra, che lavorano per la cittadinanza, lavorando con i comuni, le municipalità, le regioni in maniera del tutto gratuita, non ricevendo finanziamenti ma portando il proprio supporto, certamente sono state colpite un po' da questa iniziativa che non è questa decisione governativa che non era assolutamente attesa. Detto questo, in questi 3 anni si è sviluppato una piattaforma di lavoro e di materiali che dal glossario di educazione finanziaria ed economica, che è a disposizione digitalmente sulla piattaforma Redoc con oltre 1200 esercizi per favorire il passaggio generazionale e diciamo così mettersi un po' alla prova con oltre 350 vocaboli di economia e finanza, fino alla piattaforma per le famiglie, quindi sul sito Family Me, dove ci sono oltre 30 video con un questionario di competenze, anche questo portato alle famiglie insieme al simulatore di budget familiare, che è il tema proprio di oggi. Ah sì sì, infatti l'ho già visto prima, adesso daremo anche qualche informazione per poterlo compilare correttamente, così fare questo bagno di realtà rispetto alle proprie abitudini di spesa. Sì, perché è un discorso di responsabilità personale, quello che noi vorremmo proprio portare alle famiglie un proprio percorso, perché lavorando soprattutto non solo nei grandi comuni come a Milano, nelle province, poi col progetto Donne al Quadrato, dedicandoci soprattutto alle donne ed anche alla povertà educativa nei confronti degli adulti, soprattutto anziani, ecco che poter affiancare, supportare con una task force di oltre 30 docenti formatrici per cercare di aiutare le situazioni, rilevare le situazioni di sovraindebitamento, guidare verso l'arbitrato piuttosto che l'ufficio antiusura, per cercare di risolvere delle problematiche. Abbiamo persone che hanno 7 revolving card senza rendersi conto dell'isolamento economico. Pensavo che fossero addirittura sparite dal mercato, invece ancora c'è chi le ha, le usa e si indebita fino al collo con questi strumenti che si ricaricano automaticamente di liquidità. Sì, infatti è proprio quello che noi leviamo, la difficoltà da parte anche delle istituzioni finanziarie di affiancare, nonostante MiFID 2 e tutto l'impegno che hanno messo le istituzioni nel formare i propri consulenti, nel parlare proprio al cliente spiegando la situazione e proprio con un focus sul bilancio familiare, che deve essere il punto di partenza di un'economia responsabile della famiglia. Voi quando siete partiti con Global Thinking Foundation avevate esattamente in testa questi obiettivi da raggiungere, questo percorso da darvi, oppure avete apportato anche dei correttivi strada facendo, scoprendo le criticità sul territorio italiano, che purtroppo, ahimè, sappiamo sono molte, altrimenti non sarebbe stato necessario far decollare questa strategia nazionale? Per esempio, Donne al Quadrato è nato perché lei lo aveva in testa sin dall'inizio, o perché si è resa conto strada facendo che c'era bisogno di un impegno mirato destinato all'universo femminile? Sicuramente Donne al Quadrato nasce in questo senso perché mi sono resa conto dopo che avevamo preparato la piattaforma dei materiali con il nostro comitato tecnico-scientifico, con la Fondazione Politecnico di Milano, della necessità di avere un mezzo di dialogo nei corsi frontali. Dall'altra parte anche dare l'accesso digitale, proprio perché sedendo ai tavoli dell'OCSE e del Fondo Monetario Internazionale vediamo cosa fanno gli altri paesi e cosa ancora non è stato fatto nel nostro paese. Ed è proprio nel mese dell'educazione finanziaria, che con le 26 giornate di formazione e i corsi che abbiamo fatto e soprattutto i dibattiti sul welfare sociale, sul lavoro, che abbiamo capito che dedicare questo progetto alle donne, che ha visto in meno di un anno incontrare oltre 1029 adulti, di cui 962 donne, che sono state formate con dei corsi certificati ISO, ha dato enormi risultati, e soprattutto l'analisi impatto sociale che sono state fornite ai comuni, e dove stiamo continuando con, tra l'altra cosa, un progetto Focus Sud triennale proprio per quelle regioni del sud dove la richiesta è enorme, dove le donne hanno molta meno indipendenza economica, tanto diciamo, per sono, dirla anche sono meno un concetto, bancarizzate, ecco. Quindi non hanno magari il conto corrente proprio personale e hanno delle problemi da reintrodursi nel mondo del lavoro, perché il problema grosso nostro dell'Italia è un'occupazione femminile così bassa rispetto di oltre 18 punti rispetto alla media europea. Claudio Grossi, partner di Progetica, buongiorno e bentrovato. Buongiorno a tutti, buon anno. Allora, andiamo invece all'impegno della vostra organizzazione, che è diffuso, operate a vario livello, ma mi interessa capire in che cosa consiste questo progetto con la città, che non è anche in questo caso tutt'altro che un progetto, perché ormai è un'iniziativa ben consolidata che va avanti da anni, questo percorso di educazione finanziaria di qualità per i cittadini di Milano. Tra l'altro Claudio Grossi mi ha inviato qualche giorno fa anche un documento molto interessante, all'interno del quale si trovano dei test per le persone, compilati i quali si può stabilire se e in che modalità prendiamo delle decisioni di consumo e di risparmio, quindi anche in questo caso consentite alle persone di farsi un autotest rispetto al proprio profilo, e molto spesso si scoprono delle sorprese molto interessanti. Allora Grossi, iniziamo con il percorso su Milano, da quanto tempo va avanti, cosa avete fatto in questi anni, e poi parleremo anche di tutto quello che è in cantiere per il 2019. Sì, allora noi abbiamo incominciato nel 2013 con un percorso pilota organizzato in partenariato con il Comune di Milano, più precisamente con l'Assessorato alle Politiche Sociali e alla Cultura della Salute, insieme all'Università Cattolica, con il Laboratorio di Statistica Applicata a Decisioni Economiche Aziendali e con l'UNI, l'Ente Nazionale Italiano di Normazione, e naturalmente con noi di Progetica. Questo partenariato ha portato avanti non solo un progetto, ma proprio un modello di educazione finanziaria di qualità che vede i suoi riferimenti nelle norme di qualità, in particolar modo la UNI 11.402, e con questo tipo di modello abbiamo messo in piedi non solo un corso, ma un percorso per i cittadini, un percorso fatto da sostanzialmente un portale, naturalmente, dove ci sono quelle che citavi, i questionari, tutto il materiale che un cittadino necessita per poter incominciare a prendere un po' le dimensioni col suo budget familiare e con gli aspetti di tutta la sua vita, non solo, ma abbiamo organizzato all'interno di questo percorso delle aule e quindi degli incontri frontali con i cittadini, che chiamiamo incontri di sensibilizzazione. Che cosa vi chiedono quando vengono a seguire i vostri corsi, Claudio? La cosa più interessante, questi percorsi frontali, questi incontri frontali, come li ha chiamati lei? Come li hai chiamati tu, lei? Un momento vi do del tu, momento del lei, mi viene anche da ridere, quindi Claudio. Le domande sono le più disparate, però la cosa più interessante è vedere come nel momento in cui si parla ai cittadini, ragionando sui problemi che ogni persona alla fine di sera, al mattino quando si sveglia, deve affrontare, in quel momento le persone cominciano a sintonizzarsi e a capire che c'è qualcosa di importante che devono affrontare, che non è soltanto il prodotto migliore o la performance del mercato, ma anche un metodo da applicare e da utilizzare in famiglia per gestire appunto le esigenze della famiglia. Quindi il tema è il metodo. Diceva Henry Ford, come voi scrivete nel vostro fascicolo che presenta queste iniziative, risparmiare non significa niente in sé. Ciò che conta è il motivo per cui lo fai, per te, per il tuo lavoro, per ciò che ti sta più a cuore. Tutto questo vale molto più del denaro. Claudia Segre, anche voi con il progetto Family Me siete su Milano, molto attivi, sì, in questo caso in collaborazione con il Politecnico, e avete sviluppato proprio un percorso specifico destinato alla inclusione finanziaria delle famiglie dei millennials, qualcosa del genere, non so se ho capito male. Sì, infatti, allora i percorsi sono legati ai vari target, per cui c'è un percorso di pianificazione familiare di base, soprattutto legato agli adulti che non hanno alcuna competenza soprattutto questo è un corso che è stato fatto ed è un percorso che è stato proposto nei centri antiviolenza per le donne in isolamento economico, perché il lavoro che viene fatto è legato proprio al contrastare la violenza economica e aiutare una, diciamo, situazione di equilibrio e pacificazione familiare. Mentre invece il corso di pianificazione finanziaria avanzata, come il corso di pianificazione professionale, sono altri due percorsi che vengono proposti anche in questo caso agli adulti e alle donne, mentre quello che citava e quindi immaginiamo sostenibile, che è stato legato ai millennials, teniamo conto che i millennials sono i nuovi imprenditori e quindi tenendo conto che abbiamo anche una legge italiana sulle start-up e agevolazioni per quanto riguarda poi in particolare la nuova imprenditoria al femminile anche da un punto di vista europeo, ecco che si aiuta con questo percorso ad acquisire tutte quelle competenze, dal business plan alla SWOT analysis alla comunicazione digitale, per rimettersi in moto col proprio lavoro, cercando un nuovo lavoro, ottimizzando il lavoro che già magari si sta facendo a livello anche magari amatoriale, oppure acquisire delle competenze che diventano competenze curricolari e quindi permettono anche con questo percorso di consapevolezza che abbiamo fatto con i comuni del Mantovano, con i comuni, adesso vi era avviato con i comuni del Messinese, proprio di lavorare a tutto tondo anche sulla rinclusione sociale, proprio su questo ambito di millennials che sono più colpiti anche dalla crisi economica. Questa è una specifica molto importante quella che ci ha dato, perché molto spesso quando parliamo di questi argomenti le persone ritengono che quando parliamo di educazione finanziaria ci si debba limitare nella spiegazione di questo concetto alla necessità di apprendere come funziona un conto corrente, come si sottoscrive un mutuo, che cosa implica utilizzare una carta di credito rispetto ad un bancomat. Siete molto oltre come iniziative di educazione finanziaria, significa essere educati ad un approccio corretto all'evoluzione del mercato del lavoro, all'utilizzo anche degli strumenti finanziari che sono nuovi, perché viviamo in un mercato finanziario sempre più globalizzato che ci comporta sicuramente essere pronti a nuove sfide, ma ci dà tante anche opportunità. Sì, mi permette di dire, l'ispirazione è anche venuta questo da quello che abbiamo osservato in alcuni paesi, lavorando anche a fianco con l'UNESCO, dei progetti che vengono fatti nell'Africa centrale, dove il boom dei pagamenti digitali ha cambiato, stravolto completamente l'approccio dei risparmiatori. Esattamente come, mi permetta di dire, in alcune nostre aree isolate dove non ci sono uffici postali, non ci sono uffici bancari, e il digitale veramente fa la differenza per i piccoli imprenditori e per i risparmiatori. Quindi aiutare, affiancare e accompagnare le persone a un utilizzo consapevole del digitale e anche opportunistico, se vogliamo, per far la differenza, per non abbandonare la propria, diciamo così, località di residenza, per capire che lì si può installare. Certamente però vediamo quello che succede ad esempio nell'Osservatorio Sicilia, dove noi possiamo fare tutti gli sforzi di questo mondo per cercare di ottimizzare i benefici della digitalizzazione, ma se poi qualsiasi pacco che un imprenditore vuole far viaggiare fuori dalla Sicilia ci mette 24 ore in più di un qualsiasi pacco che viene trasportato all'interno del territorio italiano, ecco che abbiamo un problema. Certo. Dove bisogna andare incontro, quindi possiamo aiutarli con la formazione professionale? Assolutamente sì. Ma poi è un sistema che deve responsabilizzarsi attorno alle persone che consapevoli dei loro limiti, si attrezzano per superarli. E l'educazione limiti. Finanziaria è anche questo, cioè portarli verso un proprio percorso di reinclusione e di consapevolezza che le competenze economiche e finanziarie agiscono nel vivere quotidiano in maniera preponderante. Allora, sono le 11.30, devo andare ai mercati finanziari. Intanto vi ricordo ancora che potete intervenire in diretta oppure inviandoci dei vostri messaggi al 349-238-6666, che ci potete scrivere attraverso la modalità SMS, ma anche inviandoci dei messaggi vocali su WhatsApp. Raccontateci che cosa avete fatto nel 2018. Siete in grado di poter dire quanto avete risparmiato e quanto avete speso destinando una parte del vostro budget a quelle voci appunto di spesa che sono incomprimibili, che sono fisse? Magari siete in grado di dire quanto spendete nel corso di una settimana, ma poi una volta che è necessario fare un bilancio mensile, semestrale o addirittura annuale, ecco qua che vengono fuori delle sorprese importanti, perché non avevate avuto la minima idea di quello che effettivamente va destinato a una parte del risparmio e dall'altra parte appunto alle spese fisse. Quindi condividete, se volete, con noi questa vostra esperienza personale e familiare. Intanto io mi fermo, abbiamo i mercati finanziari a tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di denari. E allora, il budget della famiglia, come gestirlo? Siete bravi in questo oppure avete come dire un metodo da darvi? E questa è la vostra grande sfida del 2019. Perché non ce lo raccontate? Se è così, da dove state iniziando? Ne avete parlato in famiglia? Noi condivideremo le vostre strategie con i nostri ospiti di questa mattina. Abbiamo sentito fino ad ora Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation, e insieme a lei Claudio Grossi, partner di Progetica, molto attivi sul territorio nazionale con iniziative a vario livello, un grande impegno sul tessuto milanese e naturalmente anche con l'obiettivo di portare i modelli dove queste iniziative meglio funzionano in tutta Italia, come Global Thinking Foundation sta facendo. Per intervenire in diretta, come sapete, la modalità è sempre la stessa: 800 24 00 24, oppure scriveteci al 349 238 6666. Allora, volevo Claudio Grossi ritornare a lei, a Progetica, all'iniziativa con il Comune di Milano, e avete fatto proprio questa pubblicazione sulla gestione dei conti familiari ed è una gestione che si può organizzare in quattro fasi. Ce le sintetizzo un po', così magari entriamo anche nella testa delle persone che ci ascoltano, che potranno fare un check-up della propria situazione personale e così provare a capire se seguono questo metodo che voi suggerite. Cosa si deve fare esattamente? Sì, innanzitutto bisogna partire da quello che è un consuntivo del conto economico dell'ultimo anno. Per fare questo ci sono diversi strumenti. Il più semplice è quello di incominciare ad annotarsi i consumi che di giorno in giorno vengono fatti. E poi arrivare alla fine dell'anno con il consuntivo. Non avendo la macchina del tempo, ci sono degli strumenti che consentono di stimare quello che può una famiglia consumare, partendo per esempio dai dati di Istat, che per esempio ci ricordano che una famiglia consuma annualmente, o meglio mensilmente, 2.564 euro, e quello può essere un punto di partenza della stima, e man mano modificare e aggiornare questa stima. Dopodiché la cosa da fare è quella di concentrarsi sul risparmio. Cosa significa concentrarsi sul risparmio? Significa sostanzialmente porsi un obiettivo di risparmio, un obiettivo che è non tanto perché si deve fare, ma perché il risparmio consente di effettuare consumi nel futuro, i consumi che si vogliono fare, quindi per realizzare la vita che si vuole fare nel futuro. Quindi non è, il risparmio non deve essere visto come una rinuncia, ma deve essere un qualcosa per costruire il futuro. Per massimizzare il risparmio, la regola principale da fare è quello di non metterlo in secondo piano, cioè in sostanza a partire dai redditi togliere i consumi e derivare il risparmio. No, al contrario, è metterlo in priorità, e quindi partire dal reddito, fissare questo obiettivo di risparmio e poi ne deriva una capacità di consumo. Questa è una fase cruciale. I cittadini davanti a questo primo metodo Come si approcciano? Perché per qualcuno in realtà adottare questo cambiamento nello stile di vita personale, nello stile della vita finanziaria della famiglia è un'impresa veramente a volte che sembra insuperabile. Grossi. Sì, esatto. Qui ha molto a che fare col tema di modificare i propri comportamenti. Fatichiamo a cambiare le nostre routine e quindi le nostre abitudini di consumo. Ecco che allora arriva il tema della motivazione. Allora, se io sono motivato e ho capito che sto facendo questa operazione per una migliore vita quando andrò in pensione o per mandare mio figlio all'università piuttosto che allargare la casa e migliorarlo, allora in quel momento io mi sono costruito la motivazione e sono predisposto a modificare il comportamento. Quindi darsi un obiettivo accanto al cambiamento di comportamento. Intanto vi leggo qualche messaggio. Allora, un ascoltatore scrive: togliere la carta di credito alla moglie, problema risolto. Claudia Segre, noi proviamo invece a bancarizzarle queste donne qua. No, condividiamole queste carte di credito. Uno, vabbè, poi dopo risponderò anche all'ascoltatore che mi contesta l'affermazione che ho fatto prima sulla Juventus, che non sarebbe economia reale, entrate per case gratis allo stadio, il merchandising, chi lo paga, eccetera. Poi andiamo anche su questo, che mi sembra un problema marginale stamattina. Da 3 anni uso Kakebo, che è, sì, come sapete, la strategia giapponese per ordinare i conti di casa, per registrare e monitorare le spese. È un fantastico modo di toccare con mano come usiamo i nostri soldi. Un altro ascoltatore: sono scatenate negli ultimi istanti, la mia famiglia spende da anni più di quanto entri. Ci aiuta un affidamento bancario e antichi risparmi fatti prima della nascita dei figli. Però, insomma, vivere anche molto al di sopra delle proprie possibilità a lungo non so quanto possa essere sostenibile. Mi permetto di suggerire ciò che anche io ho fatto, non avendo l'abitudine di mettere i soldi nel salvadanaio: ho attivato un piano di accumulo sul mio conto corrente. Un saluto, Daniele. Allora, Claudia Segre, subito un commento rispetto a questi primi messaggi di condivisione delle strategie delle famiglie che ci ascoltano. Allora, diciamo, i metodi sono tanti e soprattutto quello che viene in aiuto, come è stato ricordato, è il fatto che tramite il conto corrente, il proprio banking online, si ha già una raffigurazione dello storico di quelle che sono state le spese e gli impegni, già suddivise anche graficamente, devo dire. Da questo punto di vista si è fatto grandi passi avanti. Questo è un aiuto, ma bisogna poi tradurlo in pratica. Noi quello che portiamo all'interno dei nostri percorsi è proprio la metodologia Warren, che è quella di suddividere le spese, il proprio bilancio familiare, nella regola del 50-20-30, cioè il 50% deve essere dedicato alle spese essenziali per la famiglia, il mutuo piuttosto che l'affitto, lo studio tutte quelle che sono le spese, le bollette, quelle spese che sono essenziali per il vivere quotidiano. I trasporti, l'automobile, eccetera. Esattamente. Poi un 30% deve essere tenuto da parte per quelle che sono invece le spese più variabili, quindi quelle spese discrezionali che sono relative allo stile di vita, al fatto di potersi di fare un regalo a un'amica per il compleanno, una cena, un cinema, mentre invece il 20% quindi deve essere... Quindi non è una parte che va nel primo 50%, esattamente, è proprio distinto. Esattamente, e poi dopo un 20% che deve essere istituzionalmente dedicato al risparmio, come dicevamo prima, un approccio responsabile, un accantonamento, che poi può essere tradotto, come diceva prima l'ascoltatore, in un piano di accumulo, certamente, o in altre forme, però quel 20% mensilmente che si riesce con grande fatica a mettere da parte, poi dopo, come si diceva, serve poi nel futuro per affrontare situazioni che vanno al di là di quelle spese variabili che si erano già prese in considerazione. Altro grande tema: questo 20% lo accantoniamo all'inizio del mese quando entrano gli stipendi o alla fine del mese quando si fa un conto di quello che rimane, Segre? Perché c'è anche questo dilemma che attanaglia molte persone, che in realtà se te lo togli subito ti rimane, esatto, meno da consumare, ma quello è, e fai finta che il resto tu non ce l'abbia. Per il resto, se aspetti di poter risparmiare quello che ti rimane alla fine del mese, chissà che cosa è successo nel mese. È anche un discorso proprio di comportamentale, cioè agire preventivamente ti permette di avere un grado di sicurezza maggiore. Nel nostro simulatore proprio di bilancio familiare a disposizione di tutti sulla piattaforma per le famiglie, no? Proprio si permette di poter, con diversa cadenza e frequenza, mensile, settimanale o trimestrale, poter mettere dentro proprio queste cifre, i costi, quelli quelli che sono evidentemente fondamentali, quelli che si sono rilevati o ci si aspetta di dover affrontare nel mese, e quindi poter simulare, stampare, tenersi da parte il proprio piano, proprio perché durante il corso del mese si possa vedere se ci si sta tenendo a quel piano o se necessita, certo, proprio un intervento in più, proprio grazie a quel risparmio che abbiamo fatto. Io accantono sempre qua, un ironico ascoltatore ci scrive: il 22%, peccato che me lo prenda la signora IVA, nella speranza che non scattino altre clausole di salvaguardia che sono dietro l'angolo. Ma chi dispone di 1200 euro al mese come fa a risparmiare? Altro tema, il budget, certo, molto limitato, le entrate molto limitate per molte persone. Si risparmia poco, pochissimo, ma quando si comincia a vedere che quel pochissimo si accumula e diventa, esatto, qualcosina di interessante, ci predispone meglio anche ad un'organizzazione migliore, ad una razionalizzazione anche delle spese che si fanno. Pianificando nel lungo termine anche magari il potersi permettere una vacanza, un weekend, un qualcosa anche per noi, ma che è proprio grazie a quel piccolo sacrificio, quella responsabilità verso noi stessi che abbiamo, che possiamo affrontare. Sentite che bella azione di responsabilità adotta Giovanni da Bologna in famiglia. Giovanni, benvenuto e grazie. Allora, quali buongiorno, sono gli strumenti che utilizzate in casa per gestirvi dal punto di vista finanziario? Buongiorno intanto a tutti. Noi siamo io, mia moglie e tre figli maschi. Mm-hmm. Noi come sistema ci mettiamo tutti a tavola insieme, guardiamo quello che abbiamo fatto l'anno precedente e decidiamo, in base insomma al monte salari che abbiamo io e mia moglie, se rifacciamo lo stesso stile di vita dell'anno precedente e mettiamo più o meno le somme predisposte o indicate per quella cosa che vogliamo fare. Tipo andiamo a sciare, sappiamo che vogliamo farlo e ci piace farlo, mettiamo, certo, quella cifra. Sapete che vi servirà quella cifra, che più o meno sarà quella dell'anno precedente. Io la chiamo una sorta di finanziaria, insomma noi predisponiamo quello che può essere la cosa che vogliamo fare nel 2019 e in base ai soldi che abbiamo cerchiamo di mantenere quello stile di vita dell'anno precedente, sperando che non ci siano insomma incrementi in qualche voce. Se ci sono degli incrementi in una di quelle voci, rinunciamo ad un'altra cosa, certo, concordandolo tutti e cinque. Concordandolo con Bruxelles, Giovanni, visto che fate una manovra esatto, di bilancio in casa. Che esatto, e considerando anche che ci possono essere delle forme insomma di intervento esterno che non sono a nostra discrezione, a nostra volontà, esatto, insomma. Infatti. Giovanni, è un giochino molto semplice, lo scriviamo una finanziaria fatta così, molto semplice, insomma, con i bimbi e gestiamo così e poi ogni tanto andiamo a controllare trimestralmente che siamo all'interno della nostra gestione. Si può fare. Giovanni, tutto quanti qua anni hanno i suoi figli? Tanto per capire anche a livello educativo. Tommaso ne ha 11, Giacomo ne ha 15 ed Elia 18. Quindi sono anche grandicelli, ecco. Quindi hanno anche. Scegliamo il nostro stile di vita insieme, cioè se possiamo farlo, che rientra nelle nostre scelte, lo facciamo, altrimenti rinunciamo a una cosa per far quello, ma restiamo nel limite della nostra capacità di reddito, insomma. Grazie. È una scelta condivisa, no, è molto carino, poi è una cosa divertente. Assolutamente, sono complimenti Giovanni, siamo d'accordo. Finanze, e si può fare, Giovanni, no? Non mi pare che ci sia nessun trauma all'interno della sua famiglia tale per cui non potete portare avanti questo tipo di metodo. Giovanni, chiedo anche pazienza adesso a Claudio Grossi e Claudia Segre, devo andare a sentire il traffico, poi abbiamo anche un altro ascoltatore e altre testimonianze molto carine che ci stanno arrivando. A tra poco. Due di denari. Qua continuano le nostre colonne sonore molto avvincenti per accompagnarvi al meglio anche nell'apprendimento di questi concetti che a qualcuno sono un po' indigesti, altri invece con grande semplicità si attrezzano in casa per gestire le finanze di famiglia. Claudio Grossi, che cosa ne pensa della manovra di bilancio in casa del nostro amico di Bologna? Ah, eccezionale, sono stupito e lo voglio sottolineare perché lui sta applicando la prima strategia che consente di massimizzare il risparmio, che è appunto il tema del coinvolgimento dei componenti familiari. Tutti a prescindere dall'età, e ovviamente con il loro carico di responsabilità differente in funzione appunto dell'età. Quindi assolutamente buono e da sottolineare anche per tutti gli altri ascoltatori, perché questa è la prima strategia. La seconda, che è stata citata velocemente, è il tema dell'automatismo. Perché noi non c'è niente da fare, tendiamo a sabotarci, quindi cominciamo l'anno con dei buoni propositi e poi... proprio come quelli della dieta. Esatto, esattamente. E quindi il tema dell'automatismo è mettere in piedi dei meccanismi che, una volta presa la decisione, lavorino in automatico per spostare il risparmio e quindi evitare di cadere in tentazione di spenderlo immediatamente, e vanno a costruire quel salvadanaio che mi consente appunto di... affrontare, certo, gli obiettivi del futuro. Sentite, affrontiamo però con realismo anche le situazioni di chi questo automatismo non possono organizzarlo perché non è automatica l'entrata. Per esempio, ce lo scrive un ascoltatore che ci racconta, anzi è Simona, come disporre un piano di ripartizione delle spese quando le entrate non sono regolari, non sono mai certe, essendo piccoli artigiani, sia io che mio marito, Simona, e quindi assolutamente adesso le rispondiamo. Un altro ascoltatore che vogliamo ascoltare, Giuseppe da Brescia, che lo stesso ha qualche perplessità rispetto a quello che stiamo dicendo, che naturalmente è strettamente legato anche a quello che entra a livello reddituale in casa, in famiglia, a livello personale. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno anche a voi. Sì, ci dica. No, niente, semplicemente sentivo appunto per radio, stavo viaggiando, di queste percentuali, il 50, il 30, il 20%, da che cosa viene dedotto, da quale reddito viene dedotto, perché io siamo in 5 famiglia, lavoro solo io, e sinceramente non riesco proprio a mettere via un centesimo, arrivando con il risparmio cosiddetto tra virgolette, che cominciando dalla luce, insegnando ai figli come si fa con l'acqua, anche per una questione diciamo a livello ecologico, no? Però non arriviamo a fare questi progetti del risparmio per metterlo via, per dire, ecco, certo, ho messo via un fondo e possiamo farci le vacanze al mare. Io non so la gente quanto guadagna, ma io guadagno dai 1.500 ai 2.000 euro al mese. Quando quanti figli ha, Giuseppe? Ne ho tre, di 10, 14 e quindi 15. Studiano tutti, quindi anche quello è un bel impegno. Sono piccoli, è un bel impegno, e mia moglie non può lavorare, ovviamente non perché non vuole, ma perché deve seguire i figli, perché non so gli altri, noi non abbiamo parenti o altre cose, però vedo che altre situazioni di altre famiglie sono più o meno come la mia. Allora, ecco, diciamo che Giuseppe intanto perplesso. Certo. No, lei ha tutte le perplessità che le posso assicurare hanno molti altri ascoltatori che ci stanno scrivendo, quindi qua non è che nessuno pontifica, che vuole fare i conti in tasca alle persone che oggettivamente hanno un reddito che è una coperta molto stretta da poter destinare a tutte queste necessità, però noi ci proviamo, insomma, già il fatto di sensibilizzare le persone che a questi temi non pensano affatto, per noi è già un buon risultato. Poi da lì utilizzare e trovare la strategia giusta per mettere da parte qualcosina quando, come nel caso di Giuseppe, non si può proprio fare perché le risorse non ci sono. Prendiamo atto naturalmente anche di queste situazioni, che sono tante, che sono diffuse. Però Giuseppe, il fatto che lei ci abbia chiamato e che abbia raggiunto una consapevolezza di questo rispetto a tante persone che non si fanno nessuna domanda su questi argomenti, Claudio Segre, è già un buon risultato. Sì, infatti il lavoro che viene fatto con le famiglie sul territorio mira proprio a questo, cercare di aiutare e a trovare un proprio equilibrio economico all'interno della famiglia, tenuto conto dei livelli dei salari medi, dove spesso appunto il risparmio è una voce che non trova compimento. Quindi trovare questo equilibrio, evitare un problema di sovraindebitamento è già un approccio cruciale dal punto di vista del della condivisione familiare di queste tematiche. Quindi è ovvio che sicuramente l'aspetto risparmio è una cosa auspicabile, ma prima di tutto viene un riequilibrio delle proprie finanze e la capacità di poter venire incontro. Ed è qui che lavorare con i comuni, lavorare con le municipalità e le regioni serve proprio a stimolare quei servizi che devono andare incontro alle famiglie e devono aiutare, come viene fatto un po' in tutti i paesi, quelle situazioni dove la difficoltà anche nel porre risorse verso il risparmio necessita di un sostegno fattivo. Mi permetto di suggerire a Giuseppe, con i figli che cominciano ad essere già grandi, un invito magari ad aiutare la sua compagna a trovare un piccolo impiego part time. La mattina i ragazzi sono a scuola e magari da lì può venire fuori qualche cosa. Io non voglio fare i conti nella casa degli altri dove non ci sono, quindi con il pieno rispetto lo dico, chissà se lo avranno magari certamente valutato, quello potrebbe essere un piccolo passo per fare un miglioramento della condizione finanziaria complessiva di questa famiglia, ma magari non ce la fanno perché il territorio non lo consente, perché ancora non c'è autonomia nella gestione individuale di questi ragazzi, per cui però insomma chissà. Lorenzo da Verona. Buongiorno e buon anno a tutti. Eccoci a lei. Grazie. Io sono un libero professionista, quindi mi pongo la questione, le problematiche da coloro che hanno una capacità reddituale non certa come appunto il lavoro dipendente. È molto difficile riuscire a fare un bilancio familiare in questo caso e quindi chiedevo se ci sono dei suggerimenti particolari, certo, perché al di là dello storico, però durante l'anno non si sa mai mensilmente quello che si guadagna e annualmente quello che si guadagna. Grazie Lorenzo, guardi, tasse, sì, di tutto, ecco, quanto, esatto, ovviamente. Infatti, oltretutto. Claudio, io immagino, Claudio Grossi, che voi nei vostri percorsi a Milano e in altre città italiane, persone che vi sottopongono le stesse questioni, ne incontriate tante. Che cosa rispondete? Sì, assolutamente. Il tema del budgeting non è un tema che può essere affrontato solo dalle persone che hanno alta capacità reddituale, ma va affrontato in tutte le situazioni, anzi a maggior ragione là dove c'è poca capacità di risparmio. Allora, una strategia che posso dare immediatamente è quello di incominciare a mettere in elenco le voci di consumo, e parlo di alimentari, abbigliamento, abitazione, sanità, trasporti, e metterle in priorità, perché ci sono delle voci che sono prioritarie, quindi essenziali, e altre invece che sono secondarie, e quindi si può incominciare a lavorare, a ragionare su quelle secondarie. Mm-hmm. Questo qua è il metodo. Vediamo essere molto efficace in particolar modo nelle famiglie che hanno delle difficoltà economiche ad arrivare a fine mese. Quello che scopriamo è che il fatto di mettersi davanti a queste voci con gli importi e con i pesi percentuali di queste voci fa diventare consapevole la famiglia e chi sta gestendo gli aspetti economici e finanziari. E molti non si rendono conto, per esempio, che ci sono voci che pesano enormemente sul budget familiare. Mm-hmm. Se non viene fatta questa operazione, purtroppo poi si arriva a fine mese con tante preoccupazioni. C'è un ascoltatore che ci scrive: le continue spese extra non mi consentono di risparmiare nemmeno un euro, la rottura della lavastoviglie, gli interventi odontoiatrici. Mette anche l'assicurazione auto da rinnovare, che non è una spesa extra, è una spesa fissa dell'anno, quindi anche dare il giusto nome alle spese. Esattamente, il problema è proprio quello dell'identificazione della spesa, come si è detto, che uno parta dal pregresso quando è il lavoratore dipendente, che parta dalla spesa se uno non ha un reddito regolare. È chiaro che l'attribuzione del peso di queste spese tra fondamentali e invece accessorie è cruciale per poter avere una base di partenza su cui ragionare per il proprio riequilibrio familiare. Allora, io mi rendo conto che risultiamo anche un po', non dico sgradevoli, ma magari un pochino antipatici quando ci mettiamo nella posizione di fare conti a casa degli altri. Non abbiamo questa presunzione, però da parte di professionisti che incontrano persone ogni giorno e quindi non salgono solo in cattedra, ma poi fanno dei meeting incontrando direttamente le persone e dando loro gli strumenti per riorganizzarsi, appunto abbiamo voluto fare questo ragionamento un po' con tutti voi, perché razionalizzare la spesa, mensile, periodica, appunto, può essere un'operazione che si può fare, e appunto una nuova abitudine può portare anche a delle sorprese positive per il budget della famiglia. Allora, siamo arrivati intanto alla fine. Primo impegno di gennaio per Global Thinking Foundation, Claudia Segre, velocemente. Primo impegno di gennaio, ripartire proprio dalla Sicilia e lavorare tra le università e le scuole e quindi gli adulti per riprendere non solo i percorsi che riguardano le donne, ma soprattutto la parte di consapevolezza per i 18 plus, che sono coloro che si avviano verso una cittadinanza economica, ecco, efficiente. E quindi lo dico a Giuseppe, non stiamo esattamente parlando, come sostiene lui, solo di coloro che guadagnano minimo 5.000 euro al mese, ma di tutti gli altri. Assolutamente. Claudio Grossi, il primo impegno di gennaio per Progetica, 10 secondi. Portare a completamento i 350 educatori finanziari, che sono degli esperti e che accompagnano proprio i cittadini a fare questi tipi di ragionamenti, perché non è sufficiente farli da soli, andate, ma è utile. Grazie. Andate sui siti di queste due organizzazioni e vedrete che troverete tante cose interessanti. Grazie, buon anno a Claudia Segre. Buon a presto, anno. E a Claudio Grossi, a presto. E buon anno. Io torno stasera con Focus Economia. Buona giornata a tutti.